mollo il branco. Faccio l'ultima puntata e chiamo banco. Ci sono regole che non mi appartengono, c'è chi le usa mentre gli altri non possono. Una mano lava l'altra ed insieme la faccia. Una ti pugnala mentre un'altra ti abbraccia. Ora basta, mi sono rotto. Sono cotto quando sotto esce fuori un complotto. Lotto come posso ma ridotto all'osso. Come un sasso non mi muovo se non sono scosso. Gente che non paga per i danni che ha fatto. Poveracci che va spendono più del giusto. Trovo gusto quando butto fuori tutto. Sono cose che ti fanno sentire meglio. Peggio che stare zitto, preferisco diretto. Solo chiacchiere che volano ma i fatti restano. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto presentati il mondo. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto e presentarti il mondo. Fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto. Butto tutto fuori, sono fuori tutto. Fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto. Butto tutto fuori, sono fuori tutto. E dopo la quiete che arriva la tempesta, è inutile parlare con chi alza la cresta. Resta sempre presa, sento aria fresca come esca. Uso il marcio che mi circonda, faccio sponda ma nessuno che risponda. Difficile parlare se nessuno poi ti ascolta. Ho perso le parole, resta bocca aperta. Nemmeno l'evidenza ormai più basta. Prego resta comune con quello che vedo. Meglio cieco che sembrare stupido. Forse è meglio essere sempre l'ultimo. Quando il primo vuole fottere il prossimo. La differenza tra la destra e la sinistra, solo la mano con cui si prende la forchetta. Aspetta vado di fretta ma ti lascio una ricetta. Un dito mi ha dato a chi ci sfrutta. Fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto. Butto tutto fuori, sono fuori tutto. Fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto. Butto tutto fuori, sono fuori tutto. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto presentati il mondo. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto e presentarti il mondo. Attention, please. Are you ready? Countdown. Begin. 5, 4, 3, 2, 1. Il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto presentati il mondo. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto e presentarti il mondo. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto presentarti il mondo. Vorrei poter fermare il tempo, vorrei poter cambiare il mondo, vorrei poter toccare il fondo, fuori tutto e presentarti il mondo. Fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto. Butto tutto fuori, sono fuori tutto. Fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto. Butto tutto fuori, sono fuori tutto.